Al condannato vengono legate le mani dietro la schiena. Poi viene fatto inginocchiare in pubblico in mezzo a un'enorme piazza. A questo punto arriva il boia. Impugna una scimitarra nella mano destra e uno stiletto sottilissimo nella sinistra. Con lo stiletto colpisce dritto alla nuca del condannato che, fulminato, si irrigidisce di scatto. E allora il boia solleva subito la scimitarra e colpisce il collo che, irrigidito dalla stilettata, non si piega. E la testa, zac, vola via al primo colpo.